fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento, bentornati o benvenuti in base a quando e quanto ci state ascoltando. Bentornati soprattutto a amici che stanno popolando la nostra radio. Come sapete, il nostro motto, per raccontarsi, per raccontare. Cogliamo l'occasione per far parlare i nostri festeggiati o semplicemente chi sta partecipando ad una festa, come i quattro ragazzi, o meglio due ragazze e due ragazzi, che abbiamo qui con noi in questo momento. Vai, partiamo con le presentazioni, se vogliono partire le donne per galanteria o se qualcuno vuole lanciarsi, vai, fate pure. Credo sia giusto partano le donne. Beh, perfetto, intanto e lui è già partito, vai, vai, vai con le donne. Ciao, sono Katia. Katia, ok. Silvia. E Silvia, e poi abbiamo... Ulisse e Stefano. Ulisse e Stefano, il nome è interessante, Ulisse, è il primo che sento, il primo che sento. Grazie. Ma cioè, ovviamente sappiamo il riferimento, però come dire, c'è anche un motivo dietro che tu sappia o... Sì, la mamma era appassionata di storia e epica. Mi piaceva. È andata sul sicuro, diciamo, esatto. Così, dai, un personaggio, conosciuto e anche molto, cioè, sembra parlare di un calciatore molto amato, nel senso che comunque, e beh, però storicamente parlando, pochi penso che non tifino per Ulisse, uno per quelli che fa simpatia, no? Sì, beh. Sicuramente Ulisse fa solo sempre simpatia. Fa solo simpatia. Sicuro. Fa solo simpatia. Bene, bene. Allora, dicevo che loro sono parte di un gruppo più grande, quello del 1979 di Grezzana. Stanno quindi festeggiando i 40 anni. Esatto. Come va? Come va questa serata? Benissimo. Estremamente giovani. Estremamente giovani, ma no, non solo questa sera, dai. 20 anni li abbiamo lasciati a casa. No. Fuori dalla porta, ma quando siete entrati qua. Giovane, ma no, e non solo stasera, vedi che tu stai riducendo troppo la... Sono domani. Anche domani, vedi che già va molto meglio. Tra l'altro avete scelto la sera giusta, perché non vorrei darvi troppa energia, ma potete essere giovani un'ora più del solito. E questo non è da sottovalutare. Non è da sottovalutare. Cioè avete un'ora in più per essere giovani e succede, esatto, una volta l'anno, eh. Quindi direi che potete cioè avete scelto anche la serata giusta. Lei ne ha avuto un abbiocco nel momento in cui l'ho detto, perché no, ha sentito... No, perché è un'ora di meno in realtà. No, non è vero. Io non era un abbiocco, non era un abbiocco. No. È che ha sentito il peso della serata. No, anche ecco. Un'ora di meno. Il peso della responsabilità. Ci mangiamo un'ora? No. Non vi mangiate. Abbiamo un'ora, perché... Dalle due la spostiamo le tre. Ma anche noi chiudiamo un'ora dopo, quindi... Quindi è comunque un'ora in più. Allora, dai, cosa fate nella vita? Se vi va di raccontarlo o semplicemente cosa vi piace, quali sono i vostri hobby, ci piace entrare un po' nelle vite delle persone, soprattutto in quello che piace fare. Vai Katia. No, dai. La Katia è una fantastica cuoca. Cuoca, per passione o per professione? Per passione. Per passione, e qual è il tuo piatto forte? Anche se è banale. La pizza. La pizza, fate la in casa pizza, quindi. Sì, e la paella. Paella? Sì, fa anche i... le cose conservate in barattolo. Ma è tifosissima, cioè io sono super o è cliente, allora i casi sono due o sono tre, o è cliente affezionata o vuole diventare cliente affezionata. No, potrebbe essere fantastica, è fantastica, fa di tutto, di tutto. Sì, quindi diciamo si sta un po' sminuendo lei, perché non ne sta parlando in modo... È una coltivatrice di zafferano. Bello, e questa è una cosa che... Eh sì, mai sentita. Del suo orto. Del tuo orto. E ti piace? Sì, tanto. Quanti cappelli di paglia hai? No, neanche uno. Neanche uno? È come d'estate, in realtà come fai? No, guarda, non ho il cappello di paglia, ma... Eh no, perché io ti immagino a luglio col cappellone, con la tesa larga. Io abito in montagna, non c'è tanto caldo in luglio. Ah sì? Sì, abito su Bosco Chiesa Nuova. Ah, quindi niente, riesci a sopportare la temperatura. Sta sempre benissimo. No, dici cos'è nel tuo orto, cavolo, che è interessante. Dai, ho gli asparagi, esatto, stamattina ho piantato le cipolline marettane, e le carote e le cime di rapa. Ma bello, bello. No, io ero incuriosito anche dalla storia della paella, cioè è una cosa, come dire, geografica, cioè che sei stata in quelle zone e ti hanno affascinato o hai provato e ti sei appassionata? Mi piace la cucina internazionale di qualsiasi tipo, la cucina marocchina, uh-huh. mi piace la cucina cinese, mi piace il giapponese, il sushi, lo faccio e mi piace un po' tutto. Cioè, vedi, dalla cioè, buona forchetta. Partendo da faccio la pizza ogni tanto, è già passata, faccio il sushi, l'orto, cioè piano piano sta uscendo. Praticamente abbiamo una cuoca. Sta uscendo. No, adesso l'ultima domanda, poi giuro ti lascio stare. Sì. Hai mai pensato di farlo di professione? In realtà non l'ho mai pensato, nel senso che io faccio un'impiegata e quindi non so, faccio sempre. Sei sprecata, Katia. Vabbè, ci sta, però è una cosa che le fa battere il cuore, si vede che le interessa. Bene. E questo è quello che conta. Voi ragazzi avete qualche altra passione, al di là di mangiare i prodotti che lei cucina? No, che non è valido. Abbiamo un sacco di passioni, però non possiamo dirle qua. No. Ci sta. Ecco, quindi evitiamo di entrare nel dettaglio. Abbiamo Ulisse che è un tecnico dei climatizzatori, abbiamo ci sono io che sono un tecnico del calcestruzzo, ma tutte robe che non interessano a nessuno. No, quindi... infatti io non parlavo di lavoro, parlavo come lei, di cose che vi come dire riempiono la giornata oltre ai vostri doveri. Al weekend abbiamo io ho l'orto, ho il giardino, grande. Ho tutte quelle cose che mi rilassano, che mi sì, fanno sì, staccare quella da uomini duri. Da uomini veramente duri. Da uomini duri. Quelli duri davvero. Il giardino e l'orto sono quelli, da uomini duri. Quella roba lì. Eh sì. Perché insomma, la pizza anche tu? Sì, impasti. Ah, ma impasti anche tu. Però Ulisse non ci ha mai invitato a mangiare a casa sua. Impasta. Ma perché probabilmente sta ancora studiando. Neanche la Katia non ci ha invitato. Siamo vicini, però abbiamo tutti una passione per la pizza. Beh, io solo pizza o cucina, insomma. Però vedi, Ulisse lo vedo ancora in fase studio. Cioè, lui sta ancora testando. Sì, poi esatto, credo esatto. Che quando sarà convinto partirà l'invito. Vabbè, esatto. Stiamo qua in attesa. È ancora in fase embrionale. Embrionale, dai. Mi manca la signora in viola. Signorina in la viola. Signorina in viola. No, era per riprendere la serie della signora in giallo e mi è venuto guardando il tuo ciuffo. E tu cos'hai che ti piace? No, io a me piace camminare, andare a spasso. Beh, che tra l'altro in base alle zone che mi avete detto, diciamo che anche lì da vedere, da fare ce n'è. La montagna, la natura, sì, bello. Bene, bene. Ma trekking o proprio passeggiata? Ah, vedi. Infatti è in gran forma. È in forma? Bastoncini e via. Bastoncini? Ah, le tipo ciaspole. Ah, no. Ah, quelli da sci. Ah, ok, presente. Nordic walking. Beh, che in sostanza sono più o meno le racchette da sci, insomma, riutilizzate. Saranno un po' diverse probabilmente. Sì. Io... A me fanno impazzire i turisti, non per discriminare e come dire denigrare un po' su d'età, perché sono sempre così, che le usano anche per andare tipo a fare la spesa. Perché ci sono tantissimi che fanno 500 metri, però racchetta. Ma però consumano più calorie. Sì, ma perché sai cosa? Perché io ho sempre letto, ed è vero, che il professionista non lo fa l'allenamento, ma l'attrezzatura. Cioè, tu puoi correre 42 km, ma se c'hai l'orologino, se c'hai il pantaloncino, se c'hai la scarpettina, sei più professionista. E se dopo vai al supermercato, puoi prendere 3 kg di cioccolata e non sentirti il colpa. E quello è vero, appunto. Quella è una roba importantissima. Esatto, però anche lì, per essere promotori del movimento, uno dice, cavolo, 500 metri al supermercato, che movimento è? Ma se porto le racchette mi sento già più professionale. Facciamo 25 km su carica, che così... No, ma tu sei... Grandiosa. Tu sei mostruosa. Andiamo al Francaroli tutti insieme. Tu sei mostruosa, cioè tu sei fuori categoria. Over the top, bisogna stare un po' più con i piedi per terra. No, nel senso che lei si sente che lo fa volentieri e fa insomma percorsi diversi. Bellissimo. Io parlavo di tanti turisti che anche con 300 metri si mettono tutti bardati, super sportivi, però alla fine fanno 5 minuti di camminata. E quindi diciamo che c'è un po' di differenza da quello che immagino faccia lei e quello che si può vedere ogni tanto. Ok, volete dire ancora qualcosa? Ma vogliamo salutare il nostro DJ Vise che è fuori dal vetro. No, DJ. Al Vise. Che è la Luisa. Ciao Luisa. Forte. Ragazzi del 79. Assolutamente, estendiamo ancora. Quest'anno arriviamo ai nostri primi Anta. Esatto. Quaranta. Manca ancora per me. Anche per me, però. Sono pronte, sono mature. Sono pronte, assolutamente. Beh, diciamo che se questo è il vostro modo di accoglierli, direi che è un modo giusto e bellissimo, perché se questo è il vostro modo di festeggiarli, state andando veramente alla grande. Mi sa che il vostro DJ vi aspetta, perché vi vuole. Grazie. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao.